come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:38 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24 è il numero verde, sms al 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2. Silvio Berlusconi apre a Roma il congresso fondativo del Popolo della Libertà, 6.000 i delegati, in prima fila giovani e donne. Obama, Al-Qaeda prepara attacchi negli Stati Uniti, è un cancro da estirpare. Pakistan attentato in moschea, decine i morti. Autobomba ad Herat contro gli italiani, tutti illesi. Un morto e un ferito nel quartiere cinese di Milano, ancora un'aggressione a colpi di martello. Forse una spedizione punitiva, movente, potrebbe essere passionale. Drammatica udienza al processo per l'omicidio di Gabriele Sandri, in aula i testimoni dell'accusa. Quel poliziotto ammirato a braccia tese, quasi fosse in un poligono di tiro, poi lo sparo. Forse una riforma storica per la corona britannica, niente più divieto di sposare un cattolico per gli eredi al trono. Parità uomo-donna nella linea di successione, tutti d'accordo, ma ci vorrà tempo. Certamente una delle notizie di oggi è il primo congresso che si apre del Popolo della Libertà e una delle domande che gli osservatori, gli analisti si pongono è: che cosa è questo partito? Un partito solamente padronale nelle mani di Berlusconi oppure un partito in cui c'è un dibattito democratico, in cui ci sarà magari in futuro una lotta per la leadership, insomma un vero e proprio partito che magari non si scioglierà quando Berlusconi smetterà di fare politica? Un movimento che in realtà è già nato, è già cresciuto. Queste sono le parole di Berlusconi in diretta dal primo congresso della PDL e andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto. Appuntamento storico alla Fiera di Roma. Oggi nasce il Popolo della Libertà dalla confluenza di Forza Italia e Alleanza Nazionale. Si realizza un percorso iniziato nel 94 con la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Dal palco il Premier parla ai 6.000 delegati. Papà non è un mostro, i figli difendono l'uomo di Torino, arrestato per aver stuprato la primogenita per 25 anni, è nostro fratello il colpevole, dicono. La ragazza visitata in passato da uno psichiatra, per me, spiega, era inattendibile. Processo Sandri, una guida giapponese accusa spacca rotella. Lo vidi prendere la mira, poi lo sparo. Il padre di Gabbo, per me il processo è finito. A Perugia, il racconto dell'educatore del collegio di Raffaele Sollecito. Nella sua stanza trovai un film di sesso estremo. Questi i titoli principali di Studio Aperto, due telegiornali, sia il TG2 che Studio Aperto, come sapete certamente non ostili, semmai si debba essere ostili al Presidente del Consiglio, dunque ci sono naturalmente i primi titoli, ma credo che sarà il primo titolo anche del TG1 questa sera, del TG5, figuriamoci, sulla nascita del PDL. 800 24 00 24. Moltissime le interviste in questi giorni sulla stampa sulla nascita dell'ufficiale del Popolo della Libertà. Vi segnalo un paio di cose molto interessanti. Un'intervista di Luciano Violante, esponente del Partito Democratico. L'era Silvio, non avevamo capito nulla. Nel PDS si ironizzava, si parla degli antipodi, cioè del 94, pranzo di Pasqua da me a Cogne, una di Publitalia dice «quello sta fondando un partito, nessuno di noi le diede credito, non capimmo che cominciava una nuova era, pensammo fosse una roba poco seria e sbagliammo, perché lui invece aveva già intuito come la nuova società italiana stesse cambiando e alla verità del merito, tipica della nostra storia comunista, si stesse sovrapponendo alla verità della forma». Si parla del primo annuncio di Berlusconi nel 94, ricordate, in televisione. Ma ancora più interessante, secondo me, quello che dice, anche se l'ha ribadito più volte, Enrico Mentana in un'intervista alla stampa. «Credo che una persona con la mia storia possa dirlo. La sinistra non ha mai capito il fenomeno Berlusconi. Soprattutto si è dimostrata sbagliatissima l'immagine per cui in questi 15 anni in Italia c'è stato un grande fratello TV che ha condizionato le coscienze. Se così fosse stato non sarebbe accaduto quello che è storia. Berlusconi ha vinto, poi è andato all'opposizione, ha vinto, poi è andato all'opposizione e alla fine ha rivinto». Ora la sinistra, questa è la domanda, gli oppositori di Berlusconi, che semplifichiamo chiamandoli la sinistra, ha davvero capito dopo tanti anni cosa è Berlusconi, il fenomeno Berlusconi? Da alcune parole, anche se c'è un po' di propaganda e un po' di lotta politica legittima naturalmente, sembra di no. Per esempio D'Alema, lo abbiamo raccolto da una dichiarazione di oggi, è stato ospite di Corradino Mineo a Rai News 24, Berlusconi padronale, sentite. Berlusconi mantiene quell'atteggiamento di disprezzo verso la democrazia che è tipico di una cultura padronale, di un aziendale. Disprezzo per la democrazia tipico di una cultura padronale. Ancora, il furore vulcanico di Berlusconi secondo D'Alema, secondo voi ha capito il fenomeno Berlusconi? Poi naturalmente, ripeto, c'è sempre una componente in questo caso di propaganda politica, come c'è in tutti, figuriamoci anche in Berlusconi, sentite. Il Presidente del Consiglio è in un periodo vulcanico della sua personalità. Un giorno si traveste da tranviere, un giorno da ferroviere, un giorno viene frainteso, insomma è... Purtroppo il Paese vive una crisi molto profonda e avrebbe bisogno di maggiore serietà e di maggiore compostezza e anche di qualcosa in più, di cose da fare, insomma ci sono tante cose da fare invece di passare le giornate in queste polemiche, in queste chiacchiere. E Santoro è il termovalorizzatore di Acerra che è stato inaugurato ieri, maggio 2008, sentite cosa diceva sui tempi di realizzazione, naturalmente molti erano scettici sul fatto che si sarebbe aperto, naturalmente non è solo merito di Berlusconi, ci sono state tante componenti e tante persone. In una trasmissione anno zero di maggio 2008 Santoro sosteneva: se lo aprono entro 8 mesi mi spoglio e resto in mutande. Il termovalorizzatore per completarlo ci vogliono 8 mesi, diciamo un anno, giusto? Dicono 18 mesi. I latini dicevano 18. No, ma lui si riferisce a quelle di Acerra, che c'è 24, si dice 36. Io riferisco la valutazione fatta dal commissariato. Allora, se lo finisco in 8 mesi mi metto in mutande, io facciamo una gara. Facciamo i mutandoni. Allora. Ci dedichiamo ancora al testamento biologico approvato l'altro giorno al Senato e lo facciamo con l'ex presidente del Senato Marcello Pera. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Presidente Pera, lei sostiene, e secondo me è una posizione originale e che io personalmente condivido, poi naturalmente gli ascoltatori interverranno e diranno quello che vogliono, che non c'è bisogno di introdurre l'istituto del testamento biologico. Ci può spiegare perché? Sì, io credo che ove noi per massimo a legiferare sul divieto di eutanasia, sul quale peraltro c'è un largo consenso, e sul divieto di accanimento terapeutico, sul quale anche il consenso è praticamente unanime, e sono due divieti che derivano, io ritengo, dalla nostra Costituzione, allora dopo no all'eutanasia e no all'accanimento, io credo che non ci sia bisogno di aggiungere niente altro. E questo doppio divieto legislativo, che peraltro è anche un divieto morale molto diffuso tra il nostro popolo, io credo che sia sufficiente. Rimangono naturalmente delle zone di incertezza, i casi della fine vita, ahimè, sono tanti, diversi l'uno dall'altro, ma guidati da questi due divieti io credo che quei casi si possono risolvere volta per volta all'interno di quel rapporto che si instaura tra il paziente, i suoi familiari, il medico e tutti coloro che stanno attorno a lui. Lei ieri nel suo intervento al Senato ha parlato di un caso in modo naturalmente più generale, però ci sono tanti casi poi in realtà concreti, cioè i casi dei pazienti in stato vegetativo permanente. Ecco, ci può fare questo esempio che è interessante? Sì, e quei casi in cui è difficile stabilire se continuare una forma di mantenimento in vita sì. equivalga a accanimento sì. oppure se lasciare che quei pazienti abbiano una fine naturale equivale a eutanasia. C'è una zona grigia, dice lei. Questa è una zona grigia, cioè ci sono delle situazioni in cui il malato terminale in stato vegetativo permanente è uno di quelli in cui non si sa se quando si fa un'azione o non si fa un'azione si compie da un lato accanimento e dall'altro lato eutanasia. Certo, dunque non c'è risposta e bisogna prendere una decisione, ma naturalmente da parte di chi? Questo è il problema. E questo è il punto, perché con il disegno di legge approvato ieri la risposta è la decisione la prende il legislatore, il quale stabilisce che deve essere il medico che deve avere l'ultima parola e poi stabilisce anche che comunque in ogni caso al medico è imposto di fare alimentazione, idratazione e così via. Allora, a me sembra che questo sia un modo di legiferare troppo sul caso specifico e sul caso concreto, perché poi i casi variano. E io preferirei che una decisione di quel genere, tutti capiscono e magari qualcuno lo capisce anche per esperienza personale, sono situazioni tragiche, drammatiche, perché si deve decidere qualche cosa, sì. Continuare a accanirsi con una terapia oppure dire no, è finita, basta, eccetera. Si capisce che è una decisione drammatica. Allora io credo che quella decisione sia meglio che la prendano gli individui, la famiglia, la piccola comunità che si forma al capezzale del paziente, che è costituita dalla famiglia, da un medico, da un sacerdote, da un amico, i quali in scienza e coscienza, dopo aver valutato tutto e pesato tutto, possano decidere in un senso oppure nell'altro. Ecco, qualcuno sostiene che è una posizione dire che c'è una piccola comunità che si crea, che alla fine decide, in cui c'è il medico, ci può essere un religioso, un'altra persona, naturalmente parenti, amici più stretti, sia una posizione ponzio-pilatesca, cioè una posizione di chi non si vuole assumere responsabilità e lo Stato si tira indietro. No, guardi, che non credo che sia, è una decisione difficile e drammatica, che è una decisione che moltissimi di noi hanno vissuto nella propria vita, quando si sono trovati a capezzale di un padre, di una madre, di un fratello, ed erano con il medico, ed erano con questo parente che se ne stava andando, ed erano con un amico, e veniva un sacerdote, ci siamo trovati tutti in quelle situazioni, non è lavarsi le mani. Credo che la soluzione ponzo-pilatesca sia proprio quella di dire trasformare questo caso in una pratica burocratica che si risolve in un ospedale con il codice in mano, consultando una legge, comma tale, tal di tale, il medico fa la tal cosa. Questo mi sembra un modo in cui ci sia poca responsabilità sì. Dei soggetti coinvolti e ahimè credo che mi sembra che ci sia anche poca pietà. Un'ultimissima cosa ed è questa, secondo lei la norma che prevede che il medico possa non seguire le indicazioni di questo testamento è in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione in cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario o no? Io penso che siamo al limite, non posso dirlo perché ovviamente la questione è costituzionalmente complicata, penso che se lo stiamo sfiorando, perché quell'articolo 32 Costituzione che autorizza ciascuno di noi a rifiutare qualunque trattamento sanitario, sì. Per cui ad esempio io sto andando in cancrena per una infezione ad una gamba, posso rifiutare la trasfusione che mi salverebbe la vita. E questo è pacifico e sì, qualche sì, volta certo. A me accade. Tutti sanno che è il caso dei testimoni di Geova, ad esempio. Sì. Allora, però, quell'articolo 32 deve essere combinato con un altro articolo della Costituzione, che è l'articolo 2, sì. Dal quale si ricava che anche la vita è un bene inviolabile. Allora, noi da un lato dobbiamo concedere il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari, ma dall'altro lato rispettare la vita. Ecco perché dicevo dalla Costituzione si ricavano soltanto due divieti, il no all'eutanasia e il no all'accanimento. E il resto è bene che sia mantenuto nella piccola sfera privata e comunitaria a cui facevo riferimento. Il rischio è, come diceva lei, che altrimenti noi incappiamo in vizi di costituzionalità. Presidente, la ringrazio moltissimo, buona serata. Grazie a lei pure. 18 55 e 30 800 24 00 24. Intanto Berlusconi continua a parlare. Crediamo nella libertà in tutte le sue forme, molteplici e vitali. Nella libertà di pensiero e di opinione, Berlusconi sta parlando da una mezz'oretta circa, sentiamo. Riformiste sono sempre state schierate nella coalizione di centrodestra, mentre i cultori dell'immobilismo e della conservazione sono sempre stati a sinistra. Quel passo che hanno fatto da decenni tutte le sinistre. Anche su questo ci sarebbe da discutere, dice Berlusconi, i cultori dell'immobilismo sono sempre stati nella sinistra, mentre quelli del riformismo nel centrodestra. Andiamo a sentire i titoli del TG3. Berlusconi apre a Roma il congresso di Fondazione del Popolo delle Libertà, 6.000 delegati per sancire la fusione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale. Il Premier, la sinistra ci allontana dalla democrazia e dal benessere, la crisi non ci spaventa, Bossi fedele e leale alleato. A Santiago il forum dei leader progressisti, Franceschini rovesciare i valori della destra per riparare i danni del liberismo sfrenato. Al-Qaeda prepara un attacco contro l'America dal Pakistan, lo dice il presidente Obama che presenta il nuovo piano per l'Afghanistan. Sicurezza sul lavoro, modifiche del governo al testo unico, la CGIL è un grave errore attenuare le sanzioni, scoppia anche la polemica politica. Nuova gelata per l'industria, a gennaio crollati fatturato e ordinativi, ancora molto male l'auto ma si attendono gli effetti degli incentivi. Lo stupro della Caffarella, scarcerato anche Alexandru Loios, accusato e poi scagionato dal DNA, non tornerò in Romania, dice. Domani e domenica porte aperte ai luoghi d'arte, a Milano visitabile la Fonderia Battaglia, dove nascono i bronzi dei maggiori scultori del mondo. Bene, sono le 19.20, 800 24 00 24, questi erano i titoli del TG3, Sky TG24 non ha titoli questa sera perché trasmette in diretta l'intervento di Berlusconi al congresso, al primo congresso PDL sulla fusione tra N e Forza Italia, e allora andiamo a Milano da Agostino, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica. Buonasera, guardi, proprio la trasmissione sua mi ha portato allo spunto di riflessione, perché si parlava inizialmente del testamento biologico, quindi una opportunità che è stata di fatto negata al cittadino, e subito dopo si è passati al discorso di Berlusconi in diretta, dove lui proprio era sul punto libertà. Siamo il partito delle libertà, ci piace la libertà, siamo per la libertà, però io vedo, uno, questo del testamento biologico, l'unico paese in Italia dove viene negata il libero arbitrio del cittadino, la libera scelta. Quando ci sono stati casi sui vari PAX, dico o non dico, insomma viene negata anche la possibilità di una unione formale al di fuori del matrimonio, perché l'unica forma riconosciuta deve essere quella del matrimonio, in questo caso un regalo ai cattolici, e qui mi sembra che ci sia fino a qui una limitazione della libertà del cittadino. Poi gli unici veri spiragli o le uniche vere aperture in libertà sono per esempio il quasi annullamento delle intercettazioni, le varie depenalizzazioni dal falso in bilancio in avanti, e quindi mi viene da dire lo stesso Berlusconi, che ha, come ha evidenziato la sentenza, corrotto l'avvocato Mills, quindi ha commesso reato, però avendo formulato il lodo Alfano, con il famoso lodo Alfano, si è chiamato fuori da qualunque forma di giudizio. Allora io dico, questo che partito è? Il partito delle libertà vigilate, delle libertà, non so, di delinquere, di commettere illeciti. Vabbè Agostino, siamo nel campo della battuta da bar, va benissimo, per carità. Siamo qui anche per questo. Sul testamento biologico si può discutere, su quello che lei sta dicendo adesso va bene, insomma, è una un'espressione, se vuole, alla Travaglio, la accettiamo naturalmente, volentieri, qui accettiamo tutto. Partito della libertà di delinquere, benissimo. Cristian da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Eccoci. Purtroppo più o meno il filone è quello del testatore, mi spiace, ma io gli faccio una domanda. Che continui, ho già... continui, vada pure, va benissimo. Se per lei è una riflessione politica, sì, se per lei è una riflessione politica oggi, nel giorno della fondazione del Partito della Libertà, è quella di dire che il Partito della Libertà di delinquere, vabbè, insomma, faccia lei. Scusi, se è questo che le interessa, vada pure. Non mi fa parlare. Dica. Volevo dire, Berlusconi può dire che i comunisti sono tutti delinquenti, tutti filorussi, e sì, uno può anche esprimere un'opinione contro. Ma certo, la dica questa espressione. Volevo sapere, quale altro paese del mondo, no del mondo, parliamo d'Europa, no, parliamo d'Europa e parliamo d'Occidente, sì, ha un concentrato di potere mediatico come già Berlusconi, e sì, il fatto che lo tiene non è un fatto così cabalettistico, è un fatto che perché negli altri paesi non permettono a un presidente di avere un concentrato così forte di televisioni sia private che pubbliche, perché? Ma per un semplice motivo, perché questo è una cosa fraudolenta che sposta milioni di voti con la disinformazione. E infatti sposta milioni di voti. Cristian, la ringrazio di questo intervento, che oggi Enrico Mentana, notoriamente un amico del Cavaliere, un fedelissimo del Cavaliere, un'intervista alla Stampa dice: credo che una persona con la mia storia possa dirlo. La sinistra non ha mai capito il fenomeno Berlusconi, soprattutto si è dimostrata sbagliatissima l'immagine per cui in questi 15 anni in Italia c'è stato un grande fratello TV che ha condizionato le coscienze. Se così fosse stato non sarebbe accaduto quel che è storia. Berlusconi ha vinto, poi è andato all'opposizione e alla fine ha rivinto. Che vuole fare? Insomma, il mondo è bello perché è vario, Cristian. E questa è la sua opinione, invece questa è l'opinione di Mentana. Fate voi, 800 24 00 24, dato che non riesco a cogliere nulla di interessante, per carità, con tutto il rispetto, in queste opinioni su Berlusconi, passiamo a Roberto Saviano, che è una cosa molto più degna di queste discussioni, secondo me. Allora, voglio difendere Roberto Saviano da che cosa? Da quelli che lo accusano che la sua attività si sia trasformata in una sorta di business, in una sorta di moda, in una voglia di apparire e basta, in una voglia di guadagno, eccetera, eccetera. E sono tanti, ultimo, per esempio, chi si è messo in fila tra gli anti-Saviano, anche se in modo del tutto particolare, addirittura un magistrato importante come Ingroia, che combatte la mafia, che dice: Saviano rischia di diventare un personaggio, una sorta di professionista dell'anticamorra. Sentite. La nostra epoca, lei diciamo, mi insegna, è un'epoca dominata dai media e inevitabilmente quindi ciascuno di noi, chi più chi meno, diventa malgrado magari le proprie scelte, diventano dei personaggi, si diventano personaggi mediatici e si rimane prigionieri di quella icona mediatica che viene diffusa. Il caso di Saviano sia questo, perché tocca alle nostre capacità riuscire di liberarci dalla gabbia del personaggio che ci viene costruito, oppure approfittare del personaggio che ci viene costruito. Io spero che Saviano riesca a liberarsene. Approfittare del personaggio che ci viene costruito. Io credo invece che certamente Saviano è diventato un personaggio, anche un oggetto di culto, un oggetto di venerazione, forse anche eccessiva, ma questo non dipende certamente da lui. Anzi, io esalterei quello che ha detto l'altro giorno da Fazio, quando per esempio ha sostenuto una tesi che bisogna che combattere la camorra diventi una moda, e dunque il fatto che Saviano contribuisca a questa moda è positivo. Sentiamo. Perché è vero che tutto è business, è vero che qualsiasi cosa è sempre una cosa fatta per interesse, ma succede qualche volta anche un miracolo, che questi interessi per un attimo non so se si sospendono, ma almeno si fondano. E allora quello che era il mio sogno, grandi editori, grandi gruppi di editoriali televisivi, dei media, trovassero in qualche modo un punto comune, un punto che fosse anche conveniente. Perché non deve essere conveniente combattere contro questi poteri? Perché non bisogna anche creare la moda? Usiamo anche questa parola, di combattere contro di loro. Perché dobbiamo essere sempre minoritari o marginali? Non mi sembra una cosa da poco. Un'altra cosa che ha detto Saviano nella sua intervista a Fazio è che la sua strategia è arrivare al maggior numero di persone. Dunque, il fatto di poter scrivere, che è sempre stata una sua ambizione per un grande editore, insomma, l'ambizione personale in questo caso va ad incontrarsi con la necessità che un messaggio del genere arrivi al grandissimo pubblico. Io voglio essere uno scrittore che parla al più alto numero di persone possibile. Io ho sempre stato questo il mio obiettivo, arrivare al numero più alto di persone, parlare al cuore di moltissime persone. E per farlo necessità e voglio fare strategia di me e della mia parola, arrivare sulle prime pagine, cercare di essere qui, parlare, difendermi. L'accusa di plagio mi ha fatto molto sorridere perché mi ha ricordato quello che mi diceva Enzo Biagi. Enzo Biagi, quando me l'ho incontrato quando lui tornò in televisione mi volle intervistare, e lui mi disse: ma sei davvero arrivato quando fanno il falso del tuo libro e qualcuno ti accuserà di plagio? Ecco, adesso ce li ho tutti e due. Perché qualcuno ha recentemente anche accusato Saviano di plagio del suo libro, ma non vogliamo entrare in questo. Ecco, vedete, siamo partiti da Berlusconi e siamo arrivati a Enzo Biagi. Un passaggio dell'intervento di Berlusconi che sottopongo alla vostra riflessione. Il programma di Veltroni esposto all'Ingotto non ci aveva lasciato indifferenti. Pensavamo che avesse realmente una vocazione maggioritaria, ci era sembrato per una volta sincero, un'occasione che non dovevamo far cadere, quella di dar vita a una campagna elettorale civile, e l'avevamo presa per buona. Mai è bastato un attimo perché anche quel bluff si disvelasse, perché il PD, che democratico ancora non è tornato agli antichi rituali di sempre, alleandosi con l'estremismo giudiziario e sindacale. Ora, la valutazione sul fatto che il Partito Democratico ancora democratico non è, mi sembra francamente sbagliata, perché naturalmente c'è vita democratica all'interno di quel partito. Poi l'alleanza con quello che Berlusconi chiama l'estremismo giudiziario e sindacale è un'altra questione. Andiamo in provincia di Monza da Franco. Buonasera. Salve, sono Franco, complimenti per la trasmissione. Dica. Cioè, praticamente volevo dire che le parole di Berlusconi non meritano nessuna dichiarazione. Non può venirmi a tirare fuori la Russia, il KGB, i finanziamenti, la magistratura rossa. Cioè, ma sono passati anche 15 anni. Voglio dire, parla proprio lui. Franco, cosa sono questi rumori? Sono questi rumori di sottofondo? Sto lavorando. Cosa sta facendo, no. Franco? Cosa sta facendo? Lavoro, è una ditta di metalmeccanica. Sì, ma dove? Dove si trova? Come? Dove si trova? Via Monza. Vicino Monza? Sì. E lei che fa? Lavora con il ferro e ascolta la radio. Grande. No, come fa a lavorare? Con un auricolare, con la radio accesa accanto? Giusto, con un auricolare la sento e ho provato a chiamare. Fa tre cose comunque, insieme, ascolta, chiama e lavora, perfetto. No, comunque, dico, è meraviglioso. È meraviglioso. No, nel senso che fa passare anche il tempo in questo modo, no? Si lavora giusto. Con più leggerezza, immagino. Giusto. No, ma lo dica lei. Parla proprio lui, che è entrato in politica sommerso dai debiti e che alla fine, se non si metteva in politica, andava in galera. A ridaglie questa storia. La chiudo qua. Volevo dire un'altra cosa sulle candidature dell'Italia dei Valori per il Parlamento Europeo di De Magistri e di Vulpio. Secondo me l'anomalia è che i giornali e i mass media non hanno sottolineato, come si può dire, il perché di queste candidature. Ma come non l'hanno sottolineato? E quale sarebbe il perché? Ce lo dica lei. Il perché. Di Magistri sappiamo tutto su chi stava indagando. Fulvio lo scriveva e Miele cosa ha fatto? L'ha preso e l'ha generato dal Corriere della Sera. E dunque? Un complotto di Berlusconi per far fuori De Magistri? No, nel senso che l'Italia dei Valori con queste due candidature, secondo me, ha fatto una bella mossa. Secondo me pessima, almeno per quello che mi riguarda, pessima per De su De Magistri. Poi Vulpio non lo so, non lo conosco, è un giornalista, va bene, insomma. No, Vulpio del Corriere della Sera. Vulpio del Corriere della Sera, va bene. D'accordo, ma non mi pare una candidatura che spacchi il paese, quella di Carlo Vulpio. No, ma il problema con tutto è che il rispetto. Queste due persone non hanno potuto portare avanti il loro lavoro e si sono candidati con l'Italia dei Valori. Anche per spiegare questi fatti, non è una cosa strana secondo lei? Ma perché l'Italia è un po' una repubblica delle banane? Figuriamoci, anzi no, delle banane, facciamo dei kiwi. La ringrazio, Franco, continui a lavorare con la stessa solerzia. Andiamo a Trieste. Paolo, buonasera. Buonasera, grazie. Dica. Per l'opportunità. Io ho avuto l'impressione l'altra sera ascoltando Saviano che abbiamo assistito a una grandissima lezione di giornalismo. Perché? Perché ha offerto delle chiavi. Perché il giornalismo, mi scusi? Le spiego, perché ha offerto delle chiavi interpretative, per esempio quando lui ha spiegato tutta la costruzione dei titoli che ha presentato ai telespettatori. ha offerto quindi la possibilità a chi non aveva le chiavi interpretative di decodificare quei messaggi criptati, e ha offerto la possibilità di comprendere tutto ciò a un pubblico non necessariamente locale. Ma lei parla di titoli, cose, di giornali locali? Sì, faceva vedere dei giornali campani. Sì, sì, no, c'è anche una critica, addirittura qualcuno minaccia delle querele nei confronti di Saviano, perché pare che Saviano in questa sua, appunto, nella trasmissione di Fazio abbia trattato male, ma guardi, a me non è parso così, comunque abbia trattato male i giornalisti locali campani. Insomma. Sì, credo, io ho avuto la stessa impressione, infatti la domanda che mi è venuta in quel momento, ma perché non fa anche i nomi di chi siano i direttori, chi siano i redattori, eccetera, ma non era di questo che volevo parlare, ma sostanzialmente questo, il punto è questo. Cioè parlava sostanzialmente di una connivenza da parte di alcuni settori dell'informazione in Campania e la Camorra, più o meno. No, l'impressione che ho avuto io è che questi giornali venissero utilizzati per far passare dei messaggi, sì, a un pubblico ristretto, che un pubblico che potesse capire e decodificare quei messaggi, l'esempio dei nomignoli, dei soprannomi, e invece che indicare la persona col nome e cognome si indica il soprannome, e questo è un modo per criptare tutto e rendere la cosa comprensibile solamente a un pubblico locale. Io che sono di Trieste, mai più sapevo chi era Formaggino. Invece c'è voluto Saviano che ha fatto questa opera di decodifica. Ma il punto che le volevo proporre era questo: il fatto che questa, che io definisco una lezione di giornalismo, sia venuta da uno che giornalista non è. Sì. Cosa ci dice sullo stato del giornalismo italiano? No, ma guardi, questo però, mi scusi Paolo, non c'entra niente. Non è che il giornalista deve fare l'esegesi di quello che viene scritto su altri giornali o dare interpretazioni su quello che viene scritto sul Corriere del Mezzogiorno o non so su che cosa. Saviano, al contrario, essendo fuori dalla categoria dei giornalisti, diciamo così, in senso, per capirci, evidentemente ha e conosce molto bene la realtà locale, anche l'informazione locale, evidentemente ha un'idea di come viene fatta l'informazione in Campania da parte di alcuni giornali. Insomma, questo mi sembra. Lei dice perché viene da Saviano. È proprio da Saviano che viene, da un osservatore da che Saviano, è al di fuori del mondo giornalistico, diciamo. Da Saviano e da Fazio, che anche lui non è un giornalista. Vabbè, Fazio è lì per intervistare Saviano, non sa nulla di queste cose, gliele racconta Saviano come non lo so io, uguale, identico, o no? Ma non so, io le ripeto, la mia impressione è che dovremmo ragionare un po' di più sullo stato in generale dell'informazione italiana, perché sinceramente trovo che passare da Vespa e Fede da una parte a Travaglio e Santoro dall'altro sia una cosa molto riduttiva e che ci precluda la possibilità di vedere le cose in maniera un po' più diciamo. Cioè, secondo lei, come hanno scritto in molti, è stata scritta una pagina importante della televisione dell'informazione? Io credo di sì, io personalmente. Ma per credo. Il fatto stesso di aver invitato Saviano in questa sorta di lezione o per quello che ha detto per Saviano? Per quello che ha detto Saviano, è stato quello che a me ha colpito moltissimo, è stato proprio il come lui si sia proposto. E lei è rimasto colpito soprattutto da questo passaggio qui, se non sbaglio, esattamente. Che ripropongo, mi sembra, se è questo. Paolo, aspetti un attimo, sentiamo. Questa sera mi va di parlare di quello che accade nella mia terra, lo faccio spesso, e mi va di farlo attraverso l'informazione quotidiana, quindi quello che viene riportato ogni giorno sui giornali locali. La cosa che sicuramente vi creerà, come dire, una sorta di sensazione strana, è che spesso i giornali che mostrerò, le cose che sono scritte, sarà difficilissimo comprenderle, a meno che non siate della mia terra, del mio paese. Se siete appunto friulani, lombardi, sardi, romani, toscani, sarà complicatissimo comprendere quello che sto per mostrarvi. È iniziato così, no Paolo? Sì, esattamente, poi ha sviluppato il discorso, ma insomma è partito tutto da lì. Questo era un po' il cappello, l'introduzione che lui ha fatto per spiegare la sua tesi. Va bene, la ringrazio Paolo, buona serata. Grazie a lei e buon lavoro. Marco da Torino. Buonasera. Dica. Ma allora io volevo intervenire, ho chiamato subito mentre ero nella doccia, ho sentito Marcello Pera che stava parlando di quello che pensava della legge sul testamento biologico e ho rischiato di cadere belle lungo perché sono saltato un po'. Perché? Secondo me diceva delle cose abbastanza ragionevoli, poi si può essere d'accordo, no, addirittura da cadere, cadere dentro la doccia, mi sembra esagerato. Certo, ma assolutamente ragionevoli, peccato che vi ha dimenticato una cosa fondamentale, cioè intanto... È vero, sono d'accordo con lui che una legge brutta come quella che hanno approvato, perlomeno adesso al Senato, se non mi sbaglio, era difficile farla. E perché fondamentalmente non ha senso mettere in piedi un castello legislativo tanto complicato per legiferare, tra virgolette, su questioni che hanno a che fare veramente queste sì con la libertà delle persone, sì, e con la dignità delle persone. Sono saltato dove? Quando sono saltato appunto sulla sedia, anche se era una doccia, quando lui ha detto che secondo lui appunto non serve questo apparato legislativo perché basterebbe che si consultasse questa comunità, come lui l'ha chiamata, che si crea intorno al capezzale, diciamo, dell'ammalato, quindi i medici, i familiari, e sì, un altro che è poi quello che accade anche adesso, che illegalmente è che... cioè questa è la ma non è vero che illegalmente non è così, non è così, non è così, non accade nulla di illegale perché nessuno viene perseguito, nessuno viene perseguito dalla legge perché diciamo stacca la spina a un proprio caro oppure si decide insieme al medico che si può che si può porre fine, insomma, eccetera, insomma, ci siamo capiti, no? No, e c'è appunto allora non era questo il punto, il punto era un altro, ma scusi, ma perché in questa bella comunità da lui pensata, sì, e disegnata manca la persona più importante, il malato stesso? Cioè, perché? Perché in quel momento il malato non si può esprimere, evidentemente. No, è questo il discorso, ma perché vietare la possibilità che io, il mio compagno o chiunque scriva un documento, sì, che dica in una situazione di questo tipo io voglio che mi sia fatto questo o che non mi sia fatto questo, dove sta il problema? Cioè, e questa è la cosa che io trovo, che non capisco, cioè non capisco perché non poter fare questo, cioè il testamento biologico era questo, in qualche modo decidere in un modo meno allucinante come quello proposto di andare dal notaio col medico di famiglia, sì, come se il medico di famiglia non dovesse stare a curare le persone ma avesse tempo di andare dal notaio a sottoscrivere questo testamento biologico, eccetera eccetera, quindi ci sono modi più semplici. Il testamento, quello vero, vale anche se è scritto, firmato di proprio pugno e non necessariamente depositato dal notaio, quindi questa cosa in più sinceramente non si capiva, no? Ma appunto, perché io non posso scrivere un documento firmato da me? Però già vede che lei già è entrato in alcuni dettagli, che poi dettagli non sono ma sono fondamentali. Allora, tutta questa complicazione di codici che si viene a creare inevitabilmente, magari anche di conflitto di volontà, qualche paziente potrebbe addirittura poi no, entrare in contrasto con le volontà estorte, non estorte, si creerebbe tutto un contenzioso come è successo in diversi casi. Pera che cosa dice? La situazione comunemente è questa: al letto del paziente come indicato si forma una piccola comunità, è formata da lui che non ha più coscienza ma che ha ancora la sua dignità, poi c'è un suo familiare, una moglie, un marito, un padre, un figlio che ancora lo amano, lo rispettano, ricordano le idee e magari la volontà, poi c'è l'amico carissimo di tutta una vita con i suoi ricordi e affetti, poi c'è un sacerdote che magari lo conosceva benissimo e lo assisteva, illuminava e guidava, e ovviamente c'è un medico. Questo gruppo di persone non fa un'alleanza terapeutica, altro concetto di cui non c'è bisogno, fa molto di più, costituisce una comunità solidale, familiare, umana, civile, scientifica, in alcuni casi religiosa, e questa comunità, la quale sa che non può commettere né eutanasia né accanimento, che prende caso per caso la decisione migliore. A me pare che così, senza garbugli e senza secca garbugli, ci sarebbe più libertà, più responsabilità, più tutela della vita e della dignità. Io non so perché sono d'accordo con questa posizione di Marcello Pera, la ringrazio Marco per le sue osservazioni che condivido in larga parte. Fabrizio Rondolino, buonasera. Buonasera. Giornalista, editorialista, autore televisivo. La prima domanda è quella che, riprendendo un'intervista questa mattina di Luciano Violante al Corriere della Sera, non avevamo capito nulla di Silvio Berlusconi dell'inizio dell'era di Berlusconi. Pensammo fosse una roba poco seria, sbagliammo, perché lui invece aveva già intuito come la nuova società stesse cambiando, alla verità del merito, tipica della nostra storia comunista, si stesse sovrapponendo alla verità della forma. Ora, secondo lei, dopo 15 anni, la sinistra ha davvero capito Berlusconi oppure è ancora in ritardo? Ma a giudicare dall'intervista di Violante è ancora in ritardo, perché lui se ne è uscito appunto con questa affermazione che da un lato non è vera perché dopo la sconfitta dei progressisti nel 94 D'Alema divenne segretario precisamente sulla linea, sulla base di un'analisi tutt'altro che effimera del fenomeno berlusconiano, no? E tutto il dalemismo, cioè tutto quello che è stato imputato a D'Alema, cioè fondamentalmente il personalismo, certo. Sì, ma insomma, fondamentalmente il dalemismo che cos'è? Prendere sul serio Berlusconi, non considerarlo di plastica ma reale, e quindi anziché fare la guerra civile farci un accordo costituzionale, sì. No? Poi alla fine, adesso detto in estrema sintesi. Dunque tutto questo è vecchio quanto Berlusconi, da un lato. Dall'altro mi sembra che Violante in realtà continui, come buona parte della sinistra, a considerarlo non un fenomeno effimero Berlusconi, ma un fenomeno, come dire, virtuale, sì. Sì, esatto, virtuale, televisivo, mediatico, eccetera. No? Tra l'altro oggi, come ho ripetuto più volte dall'inizio della trasmissione, Enrico Mentane, sempre in un'intervista alla Stampa, sostiene che se c'è una cosa su cui la sinistra sbaglia è in questo binomio continuo tra Berlusconi e la televisione come fonte di tutti i suoi successi, no? Che invece dice che esiste un blocco sociale dietro Berlusconi. Poi si può essere d'accordo o meno con quello che sostiene. Sì, naturalmente nei tempi della televisione globale un blocco sociale ha anche uno stile di vita, anche un universo di consumi, anche un universo, un immaginario televisivo condiviso, diciamo così. Dunque non credo che siano stati i telegiornali di Emilio Fede a far vincere Berlusconi, ma le sue soap opera forse sì, ma questo, come sappiamo, è un discorso. Le soap opera addirittura, perché secondo lei? Sì, dico per dire, no, beh, perché non lo so, l'immagine di un mondo, tanto come c'è di un mondo riconciliato in cui non esistono conflitti particolarmente aspri, no? E questo è da Hollywood in giù. Poi un mondo in cui tendenzialmente i ricchi sono, non sono invidiati ma sono emulati, e l'invidia invece è un sentimento negativo che non sfocia nel riscatto sociale, ma al contrario è una cattiveria. Che questo modello narrativo, che poi è quello del telefilm di largo consumo, insomma della televisione commerciale, ha fatto la fortuna di Berlusconi, secondo lei? Secondo me molto più che non Emilio Fede, nel senso che appunto influisce molto più la televisione nel veicolare uno stile di vita o un'ideologia in senso lato che non una presa di posizione specifica. Sì, certo, immagino che lei lo dica non nel senso magari negativo in cui si dice la televisione ha influito. No, in un senso oggettivo. D'altra parte, se avessero trasmesso fiction sulla resistenza jugoslava come facevano le televisioni libere vicine al partito comunista negli anni 70, probabilmente Berlusconi non avrebbe avuto lo stesso successo televisivo. Dunque, come dire, c'è anche il mercato che chiede prodotti leggeri, no? E i prodotti leggeri possono però anche veicolare un'ideologia, non sono di per sé innocui, ecco, ma lo dico da osservatore, sì, non da partigiano, certo. In questo caso. E a lei sembra, come dice ancora Mentane in questa intervista alla Stampa, che l'informazione di Mediaset sia cambiata nell'ultimo anno? Beh, il fatto che non ci sia più Mentana è un cambiamento talmente macroscopico che non merita aggiungere altro. Io non credo, ma lui stesso, insomma, in questo è stato molto onesto, non ha fatto il martire della libertà di stampa e non ha detto la verità. Sono un professionista, come editore non mi ci sono più ritrovato, e magari potremmo farmi una telefonata, no? Perché vabbè, c'è anche sempre un risvolto umano in queste vicende, ma comunque è un fatto che con Mentana Mediaset perde probabilmente, sì, direi lui insieme a Santoro sono forse i due numeri uno dell'informazione, i due animali televisivi per eccellenza, sì, comunque sì. Li si giudichi poi nel merito, no? E mi sembra un impoverimento oggettivo. Capisco anche le logiche di Mediaset, perché l'informazione è una rottura di scatole, ma non tanto perché Di Pietro dà fastidio, ma perché per ogni Di Pietro che dà fastidio ci sono 10 baccini che vogliono essere invitati, capito? E questo è veramente, no, io capisco che Crippa non ne possa più di queste pressioni. Va bene, allora un'ultima domanda riguarda una cosa che lei ha scritto oggi su Saviano, perché io l'ho scritta un po' alle critiche, un po', anche se forse non è una critica, ingenerose nei confronti di Saviano, cioè il voler cercare nel fenomeno Saviano qualcosa che vada al di là di quello che secondo me semplicemente è, cioè la storia di una persona che voleva fare lo scrittore, ha scritto una cosa che per una serie di motivi che sono quelli un po' magici che esistono nel mondo dell'editoria diventa un fenomeno, e dopodiché quella persona vive praticamente segregata e diventa certamente un oggetto anche di culto, forse anche eccessivo da parte di qualcuno, io credo senza alcuna responsabilità da parte sua, non so, e la riflessione sul fatto ci gioco o non ci gioca su questa cosa, ne approfitto o non ne approfitta, mi sembra una riflessione banale, non perché lei l'abbia fatta, lei ha sostenuto può la lotta alla camorra diventare una moda, lo dice diciamo anche contro Saviano? Ma lì lo spunto è stata un'affermazione di Saviano stesso, e lì da Fazio l'altra sera lui ha detto io mi rendo benissimo conto, io sono un'operazione mediatica, sì, dopodiché sì, questa sì. Operazione mediatica la metto a servizio di una giusta causa e vorrei che l'anticamorra diventasse di moda come bla bla bla, no? Che c'è di negativo in questo? E su questo aspetto del ragionamento che io non sono d'accordo, ma intendiamoci, non perché, non per moralismo o perché come dire, non neghi il diritto a ciascuno di andare in televisione o che cosa, certo. So anche che un effetto positivo trasmissioni come quelle di Fazio sicuramente ce ne hanno, però sono convinto che il gioco alla lunga non valga la candela, e cioè nel momento in cui tu diventi un personaggio, un'operazione mediatica, un personaggio televisivo, sì. Sei sottoposto a tutte le leggi e le logiche anche crudeli di quel meccanismo e ne rimani prima o poi impigliato, cioè diventi come appunto la magnifica Guevara, che non, indipendentemente da come uno sia di sinistra o di destra, diciamo che ha ben poco a che fare con il progresso del socialismo nel mondo, no? Ed è diventato un gadget come tanti. Allora, se l'antimafia, l'anticamorra è risveglio civile, partecipazione e soprattutto soldi alle forze dell'ordine e alla magistratura, perché sì, poi così, sì. Non con i libri, no? Così, allora benissimo. Se invece è il nuovo personaggio, che è molto grazioso, diciamo così, coccolato dai media, coccolato dagli intellettuali, nonostante Saviano, l'operazione rischia, secondo me, di essere, tra virgolette, pericolosa. Ecco. Cioè pericolosa perché può addirittura creare, come sostiene per esempio Pasquale Squitieri, un sentimento di orgoglio nei camorristi, o addirittura spingere molti giovani a diventare camorristi? No, questo francamente non lo credo. D'altra parte non ci sono riusciti Sopranos a farci diventare mafiosi, che è la serie TV più bella di tutti i tempi. Non credo che Gomorra ci faccia diventare camorristi. No, quello no. No, pericoloso nel senso che è l'ennesimo pericoloso, infatti non è il termine giusto. Insomma, l'ennesimo personaggio dello spettacolo, no? Sì, allora sì. Noi Napoli, la campagna continua ad andare in malora, però abbiamo Saviano che sbanca l'Auditel, che è intervistato in tutto il mondo, e quindi in qualche modo, come dire, abbiamo la coscienza a posto, ecco, perché poi i media funzionano così, no? Ognuno ha il suo eroe di riferimento e siamo tutti contenti, invece non è così. Grazie a Fabrizio Rondolino, buona serata. Grazie, 19:56, dove andiamo? Andiamo a Piacenza. Marco, buonasera. Buonasera. Dica. A lei. Io proponevo una riflessione, non ho tesi, non ho verità, una riflessione che viene anche un po' da forse dall'essere vissuto in paesi anglosassoni, democrazia liberale compiuta, con tutti i difetti che possono avere anche loro ovviamente. E la riflessione è questa, al di là dell'eccesso di faziosità da una parte che l'altra che vedo nel dibattito politico, ma la mia riflessione è la seguente, ma siamo sicuri che Berlusconi abbia veramente cambiato il paese o abbia semplicemente interpretato un cambiamento, una necessità di cambiamento o un vuoto? Io lo dico da anti-berlusconiano, in senso di anti-berlusconiano più come persona, come sua storia personale, che come percorso politico, quello che rappresenta politicamente. Beh, certamente nel 94 questo vuoto è stato riempito, dopodiché poi la storia di Berlusconi e del suo movimento di Forza Italia eccetera è stata molto diversa, ci sono stati molti cambiamenti, certamente ha rappresentato una parte molto molto composita della nostra società, molto, se vogliamo, funzionando un po' come la vecchia Democrazia Cristiana, certo, no? In parte. Certo. Andiamo a sentire il TG5. Oggi si avvera un grande sogno, così Berlusconi al congresso fondativo del Popolo della Libertà. Grazie al nostro governo aggiunge Italia più forte in Europa e nel mondo. 6.000 i delegati, tanti i giovani. Il piano di Obama in Afghanistan per smantellare la rete del terrore. Al-Qaeda dice pronta ad attaccare dal Pakistan. Autobomba contro un convoglio italiano a Herat, nessun ferito. Mentre l'Istat lancia l'allarme sul crollo del fatturato a gennaio, dalla Fiat segnali confortanti. Grazie agli incentivi a marzo, il mercato dell'auto torna positivo. Ancora violenza e sangue nella Chinatown milanese. In una rissa muore un giovane cinese, un altro ferito. Forse un dramma della gelosia. Il boom della medicina estetica non conosce crisi, ma i dermatologi avvertono: attenzione ad esagerare con fillers, laser e botulino. Che succede? Che succede? Sentiamo a Roma. C'è Berlusconi con tutti i cosiddetti nanetti del Popolo della Libertà. Sono tanti, è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nanetti. No, in realtà c'è anche la Russa, che nanetto non è perché rappresenta l'Alleanza Nazionale, però ci sono tutti i soci fondatori. Vi voglio bene, vi vogliamo bene, teneteci nel vostro cuore. Viva il Partito degli Italiani, viva il Popolo della Libertà, viva l'Italia! Vabbè, che canzone c'è? Il congresso prosegue i prossimi giorni, si chiuderà domenica con un altro intervento. Meno male, di Silvio Berlusconi. È quella? Ma intanto sentiamo nel servizio di Marinella Aresta, se è possibile mandarlo dalla regia. Eh sì, è meno male che Silvio c'è. Sentiamo nel servizio di Marinella Aresta il ma che servizio? Fateci sentire la canzone, ma sono pazzi, che è la 7? I momenti più emotivi della fine del congresso, il dibattito è relegato. Vabbè, invece nel TG1, titoli TG1, poi la canzone la sentiremo, ma che ci importa della canzone? TG1. A Roma il congresso fondativo del Popolo della Libertà, Berlusconi, siamo noi il partito degli italiani, la sinistra non cambia mai. Napolitano al PDL, leale collaborazione tra istituzioni nell'interesse dell'Italia. Franceschini, il premier si ripete da 15 anni. Obama parla di terrorismo dal Pakistan contro gli USA e chiede più soldati e nuove idee in Afghanistan. Attacco senza vittime ai nostri soldati. Industria, crollano a gennaio fatturati ordinativi. Marchionne, bene bilancio Fiat, ma i problemi dell'auto non sono finiti. Processo Meredith, parla la testimone che ha sentito le urla della casa degli orrori. A Perugia la madre di Amanda Knox. Surf estremo al largo della Tasmania, salti e acrobazie che sfidano ogni rischio fra onde alte 4 metri. Va bene, va bene, è finita la prima giornata del congresso PDL, mi sono spostato su Sky TG24 che manda tutto in diretta, anche la 7 ha mandato in diretta, poi c'era il telegiornale naturalmente. Eravamo con Marco De Piacenza. Marco, allora... Adesso appunto sentivo la notizia del giornale col corretto Silvio c'è, io credo che Berlusconi... Vabbè, ma quello lo fanno tutti i partiti. Ma è un problema, secondo me, come disse Cacciari una volta, è un problema estetico, non credo che sia un rischio per la democrazia. Berlusconi. Estetico? Sì, estetico. Lei la mette sull'estetica, Marco? Sì, perché andiamo sul difficile. C'è proprio un problema culturale, no? Però ripeto, secondo me non è stato uno scippo dell'intelligenza degli italiani. Ma cosa? Berlusconi, voglio dire, su vincere le elezioni più volte, è semplicemente che ha raccolto un'esigenza che è quella di una cultura fatta in questo modo. Ora, il dato preoccupante... La cultura fatta come? Scusi. Fatta probabilmente una cultura, come disse la stampa inglese quando vinse le prime elezioni. Sì. Lui ha vinto perché rappresenta gli italiani, quindi non credo che la televisione abbia cambiato la testa degli italiani, ha semplicemente fatto vedere che esisteva un soggetto politico che poteva raccogliere queste istanze. Beh, scusi, quindi... ma il compito di un partito politico di raccogliere consenso è di appunto di mettersi dalla parte, volendo, non solo quello naturalmente, ma anche entrare in sintonia con l'Italia, lo dice anche il Partito Democratico, dunque non capisco qual è io credo una visione della politica un po' diversa. Nel senso che credo è quella che di non politica... prendere i voti, insomma. No, chiaramente lei ragiona in termini unicamente pragmatici in questo. No, no, ho detto che non è solo di mettersi in sintonia, ma anche di fare le riforme, eccetera, eccetera, non c'è dubbio. Ecco, di essere un po' di guida anche, come dire, usiamo una parola grossa, morale al paese, dove per morale intendo poter ragionare sopra quello che è semplicemente raccogliere il voto, no? Cioè portare delle idee, dove tra l'altro ha fallito anche la sinistra, no? Beh, la sinistra sì, in questo gioco di scontro con Berlusconi ha perso dei punti di orientamento fondamentali e l'elettorato infatti gliel'ha fatta pagare. Io credo che per una sinistra liberale, in quale io auspico, occorrerà almeno un'altra generazione. Sono abbastanza pessimista, perché ogni paese ha la sua storia, noi insomma la storia italiana la conosciamo bene, non credo che si possa nel giro di qualche anno sopire una certa fattività, un certo contrasto che ha radici profonde, storiche, insomma. Quindi non penso che possiamo diventare l'Inghilterra o gli Stati Uniti nel giro di qualche anno. La storia è quella che è, la viviamo, però non ritengo neppure, mi dispiace vedere programmi come quelli di Santoro, dove magari posso condividere alcuni aspetti, però mi dispiace vedere questa animosità legata semplicemente alla quasi a un'invidia della sconfitta. Berlusconi ha capito gli italiani meglio degli altri, e dal mio punto di vista questo è il dato preoccupante. Va bene Marco, questo l'abbiamo già detto, grazie, buona serata. Dove andiamo? Andiamo a Bari. Pasquale, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera Cruciani. Io volevo dire questo, a proposito di Berlusconi, io penso una cosa, cioè Berlusconi ha avuto la capacità di capire da esperto di marketing qual è che negli ultimi tempi c'è esigenza di semplificare davanti a una realtà che diventa sempre più complessa, più difficile da comprendere. E davanti ai classici politici, i parrucconi diciamo della politica, che non fanno altro che ripetere slogan sempre uguali, Berlusconi ha capito che bisognava dare risposte abbastanza semplici, facili da comprendere. Assolutamente. Poi in quest'ultima fase c'è anche la questione del decisionismo, che non è irrilevante, no? Esatto, il decisionismo, quindi la necessità comunque di qualcuno che prenda delle decisioni. Se questo a prescindere dal merito, naturalmente, poi si può essere d'accordo, si può pensare che commetta e faccia delle nefandezze inaudite, ma non c'è dubbio che dopo i 2 anni di governo Prodi, in cui c'era una divisione praticamente quotidiana su ogni cosa, ministri che parlavano e presidenti del Consiglio che dicevano una cosa e ministri che ne dicevano un'altra, è evidente che il decisionismo è un governo più o meno compatto. È questo che crea consenso, ripeto, a prescindere poi dal merito. Bene, andiamo allora in provincia di Modena. Provincia di Modena, da Clara. Buonasera. Buonasera, solo un attimo che abbasso la radio. Pronto? Sì, la sento, dica pure. Buonasera, io la sento un po' lontano. Io ero intervenuta, l'avevo chiamato ieri sera, ma poi sono stata richiamata e ho saltato il telefono. Volevo fare 2 osservazioni. Una che è una proposta, non lo so che cosa può essere, un pensiero a caldo, quella di ignorare, lo vedo un po' come un'utopia, ignorare i politici, ignorare tutti quelli che blaterano ovunque, sperando che, non essendo considerati, si diano una calmata, da Berlusconi al Papa, eccetera, eccetera. Sinistra, destra, tutti quanti. Sì, mettiamoci. Seconda tutti, Papa, invenzione... Berlusconi, tutti insieme, tutti in un calderone comune, Papa, Berlusconi, D'Alema. Sì, tutti in un calderone, anche se lei fa dell'ironia, nel senso che se noi dessimo meno importanza a tutto quello che dicono, molto probabilmente ci sarebbe meno clamore quando i problemi reali sono tanti altri, su questo lei ha ragione, naturalmente, perché probabilmente si dà troppa importanza anche alle singole parole dei politici, però insomma il calderone in cui ci si mette tutti mi sembra sbagliato. No, non è un calderone, era così, le prime parole che mi sono venuti in mente. Va bene, perché, poi sì, lo so che lei ha sempre fretta. No, io non ho fretta. La seconda impressione era semplicemente questa: il parlare come handicappata. Sono handicappata, non diversamente abile, perché si gioca con le parole adesso. Handicappata e invalida l'80%. Allora, sul testamento biologico, che io ho ascoltato il dibattito parlamentare per l'approvazione al Senato, eccetera, sono rimasto abbastanza allibito da personaggi che non sapevo neanche che esistessero, tipo Quagliarello, eccetera. Allora, la mia osservazione è questa: domando alle persone che Quagliarello, quando dice che la Chiesa non c'entra niente, tutto quanto, cioè non so, la cosa che, scusi se vado un po' a sbalzi, quando Berlusconi è entrato in politica, o la prima volta o la seconda, ha detto che gli italiani erano come bambini di 8 anni, che bastava sapergli raccontare e bevevano tutto. Sì, però Clara, andiamo al sodo un po'. No, su questo. Ripeto, pensieri a caldo così. Aveva ragione, perché mi domando se invece di parlare di Berlusconi da mattina a sera, e se invece di lamentarsi, voglio dire, chi l'ha votato? Io sono anni che non voto, quindi, e penso anche di non votare mai più, però chi l'ha votato? L'ha votato, se lo tiene, cioè, vuol dire, se lo tiene anche chi non l'ha votato, però basta. Cioè, d'accordo, no. Clara, la ringrazio molto. 20:14:47, pensieri a caso, possiamo dire. più che a caldo, per carità, va bene tutto, eh. Andiamo a Roma, Franco. Buonasera, Franco. Sì, buonasera, grazie per l'opportunità. Volevo dire questo, ho ascoltato accendendo la radio le parole di D'Alema da Corradino Mineo. Sì. Sono rimasto francamente allibito. Pensavo che D'Alema fosse un politico intelligente, sarà sicuramente, ma a mio avviso è proprio scaduto, facendo ancora un vanto dell'antiberlusconismo. Solo la demagogia li porta avanti. Mi dispiace questo, perché non sono un tifoso della sinistra, però credo che in una sana democrazia un'opposizione forte, seria, contribuisca a migliorare il paese. Dalla sinistra continuiamo solo a sentire anti-berlusconismo e soprattutto l'attacco alla persona. Credo che Berlusconi abbia saputo cogliere, come hanno detto anche... Questo tratto di anti-berlusconismo è una cosa che fa molto comodo a Berlusconi e rappresenta in qualche modo una garanzia per lo stesso Berlusconi, almeno secondo me. Certo, la frase che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione di D'Alema ha una concezione padronale della democrazia, mi sembra appunto iscriversi in quel filone di cui lei parla. Però vi faccio ascoltare Emilio Fede su Roberto Saviano qualche tempo fa, qualche mese fa. Gomorra esagera tutto, esaspera tutto, Saviano ha detto di tutto e di più, forse è meglio dimenticare, non andrà agli Oscar, meglio così. Meglio così che Gomorra non andrà agli Oscar. Poi Pasquale Squitieri, regista, che dice in fondo Gomorra è un'esaltazione proprio della camorra. Sono andati tutti a vederselo, come tutti i camorristi, i politici corrotti, si andarono a vedere Le mani sulla città e si facevano tante risate, perché tutti i film che noi facciamo, anche i miei compresi, ma sono un'esaltazione della mafia della camorra. Un'esaltazione della mafia della camorra. Addirittura Gelli abbiamo ripescato, Gelli contro Saviano. Adesso c'è questo scrittore Roberto Saviano che su questo libro Gomorra lei l'ha letto Gomorra? No. Perché? Non ha avuto tempo. No, prima di tutto non ha avuto tempo. Poi è una cosa effettivamente, lei crede che porti eventualmente qualche vantaggio? Quello l'ha scritto per avere una pubblicità, è un costo allo Stato perché lui è così protetto. Zac, Licio Gelli addirittura. Abbiamo con noi, con grande piacere, Alessandro Piperno, scrittore. Buonasera. Buonasera. Naturalmente sono cose molto diverse quelle che abbiamo ascoltato. Prima Rondolino ci diceva che c'è un pericolo, quello che Saviano diventi una moda. Secondo lui è un pericolo, secondo me non è un pericolo. Abbiamo sentito anche nei giorni scorsi un magistrato importante dell'antimafia come Ingroia dire bisogna che Saviano si liberi del personaggio che gli è stato appiccicato addosso, icona del professionista anticamorra. Ora è inevitabile, no, che la notorietà porti dietro tutte queste cose, Piperno? Beh, è inevitabile, tanto più se la notorietà assume, come dire, delle dimensioni e delle proporzioni di questo livello, insomma. Cioè una notorietà planetaria, un numero di copie così sconvolgente, un film così amato, così apprezzato all'estero, insomma. Perché... è il cascame della notorietà. Mi ricordo che una volta Giuliano Ferrara disse che il successo disgusta, insomma, ed è vero, nel senso che può suscitare in alcuni una certa nausea. Ecco, dietro queste cose, ripeto, molto diverse, perché abbiamo sentito Fede, poi un regista, Squitieri, un non so come definirlo, insomma, un Licio Gelli. Licio Gelli, immagino. Vabbè, insomma, non lo si può definire. Sì, no, infatti, ecco, dice. Cosa c'è? Invidia in qualche caso, oppure una voglia per forza di spaccare il capello? Non capire. Io lo chiedo ad Alessandro Piperno, perché Alessandro Piperno è amico di Roberto Saviano, ogni tanto si incontro per quanto sia possibile incontrare Saviano, naturalmente non è una situazione normale, no? Cosa c'è dietro queste cose? È piuttosto complicata. Beh, insomma, credo sì, credo che ci sia sicuramente del risentimento, nel senso che è chiaro che quando, appunto, ripeto, si raggiunge un'identità, molte persone che fanno lo stesso mestiere, come per esempio Squitieri, che sta in un ambito sicuramente artistico, in quanto regista, eccetera. Quando si raggiunge quel grado di notorietà, è chiaro che che i tuoi colleghi sono animati da sentimenti che non sono sentimenti completamente nitidi e puliti. Credo che ci sia soprattutto questo. Nel caso di Emilio Fede credo ci sia un semplice pregiudizio, così, un pregiudizio di carattere politico, ideologico, un po' stupido tra l'altro, visto che mi pare che Saviano da questo punto di vista è veramente un icone bipartisan, insomma. Sì, magari in qualche momento ha mostrato attenzione nei confronti del Partito Democratico, però insomma non mi pare di quello, uno di quelli che fa discorsi ideologici, politici, molto, insomma, credo che possa essere considerato, come dici tu, davvero una persona apprezzabile a destra e a sinistra, no? Direi assolutamente. Tra l'altro vorrei dire, posso far valere la mia conoscenza personale, direi che l'ideologia in Saviano è veramente un fatto sovrastrutturale. Cioè è un'ideologia che deriva dal fatto che lui ha fatto certi studi, ha frequentato certe persone, viene da un certo ambiente, era in qualche modo allievo di Goffredo Fofi, quindi insomma quella è la sua marca. Però in realtà anche e soprattutto si è completamente liberato da tutto questo. In realtà è veramente, ripeto, completamente ossessionato dalla questione che ha a che fare con la criminalità, che credo che non sia una cosa che abbia delle patenti di destra o di sinistra, insomma. Sembra come al solito in Italia si deve trasformare tutto in qualcosa di piccino, di meschino, di strumentale, non so come. Sì, assolutamente. Questa questione della moda, no, su cui oggi Rondolino ha scritto sulla Stampa, cioè che è rivendicata da Saviano, cioè è importante anche che possa diventare l'anticamorra possa diventare di moda, perché viene criticata? Io non riesco a capirlo. Ci sono quelle cose incomprensibili poi nel dibattito intellettuale, chiamiamolo così. Anzitutto c'è qualcosa da dire, ci sono due cose da dire. Una cosa che Saviano dice sempre, e cioè il fatto che in realtà la moda, Saviano, è anche ciò che protegge lui, ed è qualcosa dall'altro che funge da deterrente per quelli che lo vogliono ammazzare. Quindi insomma, ben venga la moda. Sì. E d'altro canto credo che lì, probabilmente c'è anche nel caso di Rondolino, c'è quella stizza tipica dell'intellettuale nei confronti di ciò che è eccessivamente popolare. E in realtà ci sia soltanto questo, perché credo, poi io non ripeto, di Camorra non è il mio mestiere, non me ne intendo, però non riesco a capire per quale ragione Saviano dovrebbe nuocere alla lotta contro Camorra se diventa una moda. Mi pare il contrario, mi pare le cose che assomiglia un po' a quello che diceva Sciascia con Falcone, disse che c'era il rischio che Falcone diventasse un professionista dell'antimafia. In realtà mi pare che, insomma, retrospettivamente possiamo dire che c'ha ragione Falcone e non Sciascia, no? Grazie Alessandro di essere stato con noi. Buona serata. 20 e 25 800 24 00 24. Andiamo a Massimo, provincia di Milano. Buonasera. Sì, buonasera. No, io intervenivo molto rapidamente sulla questione di Berlusconi e il nuovo partito. Io, pur essendo di sinistra, non posso che complimentarmi innanzitutto per la sua iniziativa, e poi comunque ritengo che sia anche ora di finirla, di processarlo così, e ogni volta, ovviamente dal punto di vista mediatico questa volta. Dopotutto Berlusconi si è arrivato ai piani e alla posizione in cui è in questo momento, ci è arrivato per libere elezioni in uno stato di diritto, quando comunque una sinistra di cui io penso di fare parte, comunque, nonostante tutto, poteva comunque intervenire e porvi dei rimedi, se era il caso di porvi. Sì, sì. Quindi detto questo, voglio anche, mi perdoni il termine, ma bacchettare tanti miei, diciamo, compagni in quel senso, che probabilmente con delle polemiche così sul luogo comune non portano necessariamente a nulla. È un momento di un'analisi, sono d'accordo con chi è intervenuto prima da Piacenza, in cui diceva che probabilmente una nuova sinistra ha bisogno di uno spazio generazionale molto purtroppo lungo, non è questione di anni. Qualcuno ha detto, non ricordo chi, nei giorni scorsi, che il primo che riuscirà a battere di nuovo Berlusconi sarà qualcuno che non è di questa, diciamo, di questa generazione, ma è qualcuno nato successivamente, quando Berlusconi già c'era. Esatto, mi sento di condividere questo. Anche la ringrazio, devo dare la linea a Palermo, a Luigi, buonasera. È pronto? Ciao. Salve. Buonasera, dica. Io volevo riflettere su un fatto, che la critica del professionismo dell'antica morra viene da un magistrato che ha visto in suoi colleghi essere tacciati di professionisti dell'antimafia. Sì. Ora io penso che non si possa tacciare un giovane di 24 anni, di giovane come Saviano, che rinuncia alla sua libertà, rinuncia all'essere giovane, per una lotta difficilissima nei confronti della camorra. Che ben venga la moda dell'antica morra, perché in questo momento c'è la moda della camorra, che penso che sia molto più grave e pericolosa. La ringrazio, Luigi, sono d'accordo con lei. Umberto da Gorizia. Buonasera. Dica. Io sono over 65 di cose che ho visto in Italia. Per me questo governo è il governo delle parole, delle chiacchiere. Le faccio un esempio. Il signor Berlusconi le sta dicendo ancora, di ora dopo si smentisce, non dà motivo di serietà. Ma cosa mi colpisce? Brunetta. Io ho avuto due esperienze, due uffici, diciamo, statali. Lei? Sì. È l'INPS, è l'Ufficio delle Entrate. 40% di assenteismo che lui è riuscito a far tornare a lavorare, ma l'efficienza non è cambiata. È importante questa questione dell'efficienza, è molto importante, perché non basta chiaramente essere presenti. Evidente, ma allora qui viviamo di chiacchiere. Però anche quello è importante. È importante aver fatto diminuire, se poi quei dati sono corrispondenti alla realtà. Naturalmente ci sono molte discussioni su questo punto. È importante aver fatto tornare le persone ad assentarsi di meno. I titoli del TG2. Berlusconi apre il congresso del Popolo della Libertà. Siamo il partito degli italiani liberi, si avvera il grande sogno. Ringrazia Fini per la scelta storica e Bossi per l'alleanza. In sala 6.000 delegati sul maxi palco, la più giovane deputata del PDL e altri 4 ragazzi. Il messaggio al congresso del presidente Napolitano: confido in leale collaborazione tra le istituzioni. Obama lancia l'allarme terrorismo, Al-Qaeda dice prepara attacchi negli Stati Uniti. Il nostro obiettivo è smantellare l'organizzazione di Bin Laden, un cancro da estirpare. Drammatica udienza al processo per l'omicidio di Gabriele Sandri. In aula i testimoni dell'accusa, quel poliziotto ammirato a braccia tese, quasi fosse in un poligono di tiro, poi lo sparo. Si prepara una riforma storica per la corona britannica, niente più divieto di sposare un cattolico per gli eredi al trono, parità uomo-donna nella linea di successione. Tutti d'accordo, ma ci vorrà del tempo. Va bene, va bene. Allora, eravamo con Umberto, mi sembra, Umberto da Gorizia, eccoci qui. Allora, io vivo a ridosso della Slovenia, la Croazia e l'Austria, no? Sì. Allora, non che vado ogni giorno, ma li frequento. Quell'ottimismo che paventa il signor Berlusconi, io non lo riscontro né negli austriaci, né negli sloveni, né nei croati. Quel signore ha la facoltà di prenderci in giro. Io direi una cosa, sa com'è, dicono Napoli, chiacchiere, tabacchiere, legno, Banca di Napoli non impegna, ha già capito, no? No, no, mi dica, non ho capito nulla. Allora, a Napoli, quando lei chiacchiera tanto, sì, se va al Banco di Napoli a chiedere dei soldi, non gli danno niente. Ha capito il concetto? Sì, ho capito, ho capito. Allora, il signor Berlusconi per me è un gran parlatore, ma lato pratico, cosa è migliorato in Italia in dati reali? Non lo so, è complicato fare un discorso di questo tipo. Da quando poi? Da quando c'è questo governo? Nei cinque anni di governo precedente? Sai perché porta Iella? 2001 è venuto. Lo dice anche D'Alema, lo dice anche D'Alema. Ah, D'Alema, io D'Alema. No, dice D'Alema, dice D'Alema che Berlusconi porta Iella, perché nel 2001 c'era la crisi. È una mia, diciamo. E perché porta Iella, secondo lei, Umberto? Perché porta Iella? Perché è una persona che li sa benissimo, sono quelli che quando li vedi fanno simpatia, portano fortuna. No? Lui porta Iella. Berlusconi porta Iella. A me non mi fa simpatia. Ho capito. Poi un'altra cosa, ma perché non va a salutare Obama come faceva con Bush? Adesso diamo tempo al tempo, magari andrà negli Stati Uniti. La ringrazio, Umberto, buona serata. Dove andiamo? Andiamo a Bari. Paolo, buonasera. Interventi veloci, perché ci abbiamo verso la conclusione come al solito. Interventi rapidi, sintetici, efficaci. Paolo, dica. Buonasera. Due cose velocissime proprio. Per quanto riguarda l'intervento, io non ho visto in quell'intervento che si parla delle due grandi mali dell'Italia: la mafia e la lotta all'evasione. E poi non vedo nessuno dietro di lui. Quello è il grande problema poi del Popolo della Libertà. Quello può darsi, ma in un congresso, no, io non penso che in un congresso come quello del PDL si debba parlare nella giornata di apertura per forza di antimafia o di evasione fiscale. Quelli sono contenuti politici che che sono una cosa diversa dal congresso fondativo di un partito. Comunque sì, certamente guardi, tutta la parte di Berlusconi che riguarda la sinistra, che non è cambiata, secondo me è roba un po' vecchia, ma evidentemente i suoi consiglieri gli devono aver suggerito che ancora bisognava abbattere il tasso su questo punto. Sugli eredi di Berlusconi, no, secondo me ci sono dei personaggi, Tremonti per esempio. Antonio da Ferrara, buonasera. Buonasera. Dica, velocemente. Volevo parlare di tutta la demagogia che si è fatta per la casa in questi giorni da parte di giornalisti, politici. Un sacco di stupidaggini sono dette. Ecco, allora, il discorso mi sembra che sia molto semplice. Oggi c'era la necessità di dare dei quattrini a chi resta senza lavoro, eccetera. E c'era da fare la copertura di questi quattrini. Quindi il mio concittadino di Ferrara diceva che bisogna tassare in maniera chi ne ha, diciamo, quindi sì, classe media. Franceschini, dice lei. Franceschini, mio concittadino, sì, di Ferrara. Sì, ho capito, Franceschini, però lui diceva di una tantum sopra i 120.000 euro, non è che diceva bene, di tassare tutti così, ecco, indiscriminatamente. Mi sembra che il discorso politico possa essere semplificato e mi meraviglio che giornalisti, Ferrara, eccetera, non arrivino a una cosa molto molto semplice. E quale, diciamo, sarebbe? La sarebbe che quella che, anziché attaccare le tasse che creava dei malumori in una certa fase della società, dare a questa gente la possibilità di mettere in circolo dei propri quattrini. E dunque il piano casa ben venga, dice lei. Ben venga, perché bisogna vedere se poi viene fatto realmente. La ringrazio, Antonio, perché per adesso abbiamo visto bozze poi smentite. Bartolomeo, provincia di Caserta, velocemente, Bartolomeo. Buonasera, dottor Cruciani. La ringrazio per la possibilità di intervenire e la ringrazio per il fatto che sta parlando di Saviano. Io chiamo dalla Campania e sento molto, diciamo, questo problema. Purtroppo però devo anche constatare che aveva ragione Saviano per quello che ha detto su Rai 3, che ha detto che lui vedeva che poteva diventare un fenomeno locale alla fine. Cioè, diciamo, cioè questa cosa, infatti ci sono stati pochissimi interventi, cioè diciamo, non ho capito, non niente. A livello locale, in provincia di Caserta non se lo filano, lei dice? Non ho capito. In provincia di Caserta Saviano è un corpo estraneo, non viene seguito, mi spieghi, non ho capito. No, è il contrario, cioè volevo dire, nella sua trasmissione le telefonate, no, gli interventi degli spettatori sono stati pochi. Secondo me questo si specchia con quello che ha detto Saviano, cioè secondo me nel resto d'Italia non viene sentito in maniera così grave, cioè questo problema della mafia, Camorra, quello che sia, non viene avvertito. Non credo che gli spettatori, per esempio, che sono stati tantissimi nella trasmissione di Fazio l'altro giorno, siano tutti quanti concentrati in Campania, insomma credo che l'audience da quel punto di vista sia abbastanza distribuita in tutta Italia. Bartolomeo, ringrazio. Andiamo davvero veloci con un flash da Luciano, dalla provincia di Milano. Luciano. Buonasera a tutti. Io volevo intervenire sul testamento biologico, sulla nuova norma che è stata approvata. Sì. E sono pienamente d'accordo, perché se io adesso dovessi fare un testamento biologico mi baserei sulle cure che ci sono in questo momento. Mi dovesse succedere qualcosa fra un anno o due, non so che cure ci sono. Dunque è giusto che il medico non sia vincolato, dice lei? No, praticamente che io... È giusto che il medico non sia vincolato, perché quello è stato deciso. È giusto o non è giusto? Sì, che non sia vincolato alla mia decisione. Alla sua decisione, d'accordo. Riprendiamo questo discorso sicuramente lunedì, forse, non lo sappiamo. Magari ci sono altri temi. La Zanzara è radio24.it. Buon fine settimana a tutti. Ci sentiamo lunedì 18:30. La Zanzara.